Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Quest'oggi parleremo di InsurTech, ossia tutto il mondo dell'insurance, delle assicurazioni che sta drammaticamente cambiando con la tecnologia e peraltro sta cambiando ancora di più in maniera drammatica, ma drammatica in maniera positiva, anche grazie o per colpa di questa situazione di transizione della pandemia. Lo facciamo oggi con Stefano Dellena, che è Head of Insurance Practice di Everis, al quale diamo il benvenuto a Radio Next. Buongiorno Stefano. Buongiorno Pepe. Allora Stefano, ci troviamo insomma in un momento di discontinuità. Quali sono gli elementi significativi che emergono dalla ricerca InsurTech che avete rilasciato da qualche settimana? L'InsurTech Global Outlook 2020. Sì, abbiamo rilasciato oramai la quarta edizione di questa ricerca globale condotta dal team di Digital Insurance di Everis in collaborazione con NTT Data, e abbiamo visto come le strategie di investimento nel settore InsurTech siano oramai arrivate a un punto di consolidamento, siano oramai mature. Nel 2019 gli investimenti nel settore InsurTech sono cresciuti di oltre il 52% rispetto all'anno precedente in termini di volumi di fondi investiti, e soprattutto abbiamo visto come questi fondi siano stati in qualche modo concentrati verso realtà direi mature nell'ambito dell'InsurTech. Quindi si è vista proprio come nel corso degli anni si è passati da round di finanziamenti più piccoli in attività di seeding a attività più cospicue di finanziamento su realtà mature. Quindi direi che in generale l'anno 2019 ha segnato una strategia di investimento verso più scale up che verso start up. Quindi più verso la ricerca di aziende che magari non stanno ancora facendo profitti, ma che magari comunque stanno già vendendo, che non aziende proprio che sono in partenza nella fase di early stage e quindi magari ancora sulla carta o che devono ancora costruire il meccanismo di vendita. Ma quali sono le aziende, le startup InsurTech più promettenti che voi avete individuato nel vostro, nella vostra ricerca, e quali sono i fattori differenzianti di queste startup, di queste aziende? Guarda, una piccola premessa. Noi da quest'anno abbiamo voluto fare un'analisi delle oltre 53.000 startup presenti sul mercato utilizzando un approccio basato su intelligenza artificiale. Quindi siamo andati a sviluppare dei modelli di machine learning basandoci sulle correlazioni dei dati presenti nelle vari database di anagrafiche di startup come Crunchbase o CB Insight, per trovare correlazioni che ci potessero indicare quali fossero le più interessanti startup da andare poi ad approfondire. E su queste ti voglio segnalare fondamentalmente due categorie. Per la categoria delle startup che oramai hanno, diciamo, una storia alle spalle e quindi sono attive sul mercato, ci sono due startup nell'ambito dell'health insurance, che sono Clover e Bright Health. Cosa fanno? Clover è interessantissima perché ha un modello di business basato sull'assistenza alle persone anziane che vivono da sole, e hanno proprio sviluppato una sorta di personal healthcare advisor che affianca le persone anziane nella gestione delle proprie terapie, della propria quotidianità, facendo un po' da intermediari rispetto ai servizi sanitari e medici. Mentre Bright Health ha sviluppato un modello di business focalizzato sulle famiglie, con dei piani di copertura salute tutti incentrati sulla gamification e sull'utilizzo massiccio dei canali digitali per agevolare l'accesso a servizi sanitari da parte di tutti i componenti della famiglia. Questo per quanto riguarda le startup più mature. Se invece andiamo a vedere le startup che sono state fondate nel 2019, c'è stato un caso molto interessante che riguarda Cowbell Cyber, che è una startup nata proprio l'anno scorso, dedicata al mondo del cyber risk, che utilizza un approccio basato su intelligenza artificiale per fare uno screening della situazione del contraente di polizza prima di andare ad assicurare il rischio, e poi lo segue con una serie di servizi di monitoraggio continuo del rischio cyber a cui è esposto il cliente, sì, e in base a questo va a parametrizzare anche il premio di polizza che il cliente va a pagare mensilmente. Quindi molto interessante come approccio. L'ultima realtà che ti cito, sì, che per noi è stato un caso interessantissimo nel 2019, è una startup che si è messa nel mondo dell'assicurazione contro la pioggia, si chiama Weatherheld ed è una startup tedesca. Praticamente consente tramite un'app di assicurare le attività commerciali come ristoranti, piuttosto che chi organizza eventi all'aperto, concerti, consente di assicurare il singolo giorno e la singola fascia oraria rispetto alla possibilità di avere la pioggia e quindi di non poter esercitare il proprio business. Quindi questo magari potrebbe anche essere con i viaggi, prenoto alle Maldive, becco la settimana, non di monsoon ovviamente, sennò sarei abbastanza sciocco, ma becco la settimana di brutto tempo, devo stare chiuso in casa e quindi magari potrei farmi un'assicurazione proprio contro il brutto tempo durante le vacanze. Assolutamente sì, assolutamente sì. Loro hanno la forza di avere una rete di stazioni meteorologiche proprietarie di cui possiedono i dati e hanno sviluppato dei modelli di intelligenza artificiale che gli consentono una taratura fine rispetto alla previsione del meteo. Sì. Per ora solo su territorio tedesco, ma hanno nella prospettiva il fatto di potersi espandere a livello globale. Clear. Sono stati fondati l'anno scorso, quindi già molto interessanti dal punto di vista del funding. Senti, ma voi vi aspettate un rallentamento degli investimenti nel settore a causa della pandemia? Come si stanno comportando gli investitori e i fondi? Sì, diciamo che già nel primo quarter del 2020 c'è stato un forte rallentamento degli investimenti nel settore anche dell'insurtech. Stiamo parlando di circa un 52% meno rispetto al primo trimestre 2019, quindi sostanzioso, diciamo, come rallentamento. Certo. Oltretutto si è visto un atteggiamento molto più prudente da parte degli investitori, che hanno concentrato questi investimenti in realtà più piccole, quindi non ci sono stati grossi founding, grossi round di fondi per realtà grosse, ma ci si è spostati su investimenti un po' più prudenti. Molto chiaro. Nonostante questo si è visto comunque un atteggiamento che comunque spinge l'innovazione e vede nell'innovazione un pilastro nelle strategie di chi ha già magari pensato a come portarsi al dopo pandemia, quindi continua nel portare avanti un disegno strategico che non può essere fermato nonostante, diciamo, il contesto attuale. E il mercato assicurativo come si è reinventato in questo momento, come dire, di pandemia o di post, se vogliamo, lockdown, dove è un mercato che è fatto non solo di assunzione di rischi ma anche di relazioni personali? Sì, soprattutto nel mercato italiano sappiamo bene che per il mondo dei rami danni, quindi l'assicurazione dell'auto, della casa, delle piccole e medie imprese, è ancora molto importante la figura dell'agente come persona di contatto con il cliente. E devo dire che dal nostro osservatorio sulla distribuzione assicurativa nel mercato italiano abbiamo visto come gli agenti in generale si siano in qualche modo attrezzati in modo molto efficace e veloce per gestire il contatto con il cliente tramite canali digitali. Quindi sono riusciti a fare un cambio importante di passo dovuto alla crisi, alla pandemia, spostando quello che è tutta la gestione della relazione con i clienti su canali digitali. Ecco, ma per capire, allora, sono gli agenti che si stanno organizzando da soli o sono le compagnie assicurative che stanno dando piattaforme e supporto agli agenti per poter operare? Guarda, le compagnie assicurative da diversi anni stanno fornendo strumenti per la digitalizzazione dei processi assicurativi, ma in questo frangente ha fatto tantissimo la volontà dei singoli agenti di rimanere in contatto con i propri clienti, col cliente, gestendo la relazione su canale digitale. Quindi abbiamo visto sia agenzie di medie e grandi dimensioni, sia agenzie molto più piccole e locali che hanno spostato il colloquio con i clienti su piattaforme di instant messaging o di social, utilizzando al 100% queste piattaforme e gestendosele in proprio, pur di rimanere a servizio della propria clientela. La nostra speranza è che questo sia una forzatura non solo temporanea verso la digitalizzazione, ma possa essere l'inizio di un cambiamento per migliorare anche questa parte che era rimasta, se vogliamo, un pochino indietro rispetto agli strumenti che gli agenti hanno a disposizione per gestire meglio la parte sia di vendita di prodotti assicurativi, ma soprattutto le fasi di consulenza, che è la parte importante del ruolo dell'agente nel mercato assicurativo. Era Stefano Dellena, Head of Insurance Practice di Everis, che ringraziamo per essere stato qui con noi ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Stefano. È stato un piacere. Come sempre, il nostro motto, il presente è passato, reinventiamo il futuro, deve essere un mantra che ci dobbiamo ripetere tutti i giorni. Io vi do appuntamento a lunedì per il podcast esteso di questa intervista con Stefano Dellena, oppure la domenica alle 13.45 on air su Radio 24, la prossima puntata di Radio Next. Un saluto da Pepe Moder.